carburatore e la valvola farfalla, che più desta la mia curiosità e, diciamocelo chiaramente, anche la mia più segreta ammirazione per questo pezzettino di ferro, linea di confine, varco dimensionale tra il potenziale e ciò che sarà, tra la miscela sapiente di aria e benzina, la mitica esplosione propulsiva, miracolo motore quotidiano che dona alle ruote la capacità di attraversare distanze, di unire città, cose e persone. Mia zia Isa e i suoi nipotini, un autotrasportatore di Brema, coi porti del nord, del sud, dell'est, dell'ovest. Homo dynamicus su spazio asfaltatum. Una volta avevo una Panda, ma è una vecchia storia. Adesso non mi colpisce più. Adesso utilizzo l'autobus per ogni mio spostamento dalla facoltà alla spesa nelle piazze. La mia socialità varia, variegata. Certo, la bici sarebbe molto più comoda, ma me l'hanno già inculata 3 volte a piedi, mi rompo i coglioni, quindi sempre ritorno a colei che sempre mi accoglie e sempre lenisce la mia disagevole, disagiata locomozione. APS Mobilità, l'azienda preposta al trasporto pubblico della mia città. Ecco, devo dire che io e APS Mobilità non abbiamo un bellissimo rapporto, complicato forse da un paio di corse sospese all'ultimo secondo, magari svariate altre rade sovraffollate in perenne ritardo. APS, che la P stia per pacco. O forse sono io che sono rompicoglioni, ultra 35enne, studente universitario al 5° anno fuori corso, cazzone, frustrato e che non scopa ormai da parecchio. E per scopa intendo fare l'amore, perché scopare, quello mi riesce ancora abbastanza facile. Scopare è molto più facile di quello che si ritenga dire in giro. Ma è un secolo che non faccio l'amore, da quando l'amore della mia vita mi ha lasciato. E che mi par di capire che APS Mobilità abbia il parco automezzi più lento del globo terracchio. Certo, c'è il problema del traffico. Nella mia città il traffico è spropositato. La mia città, il volume di traffico di New York, ma appunto la mia città è un po' più piccola di New York. Nella mia città ogni famiglia ha perlomeno 3 macchine più le corrispondenti versioni SUV, cabrio, turbo diesel. Nella mia città anche i cani escono a pisciare in Apecar. E allora forse dovrebbero chiamarla APS Immobilità. O forse meglio ancora APS Immobilità. Ci stiamo arrivando? Piano piano Marco. E vedrai che piano piano ti porteremo puntuale in stazione. Prenderai quell'unico interregionale tra centinaia di Intercity, di Eurostar, che c'è sempre l'ero contato. Quell'unico interregionale che 1-2 weekend al mese ti ritorna a casa da mamma e papà. Mamma e papà che sospirano e finanziano sospirando la tua eterna carriera di studente universitario cazzone al 5° anno fuori corso, Marco, che sostengono la mia complicata, stancante, faticosa, laboriosa, affastellata, fardellata, delirante vita inutile. Valvola farfalla, perché si chiamerà così? Perché volteggia, svolazza, graziosa tra campi e campi di cilindri e pistoni in fiore che vanno su e giù, incessanti a disegnare paesaggi meccanici, ardite, prospettive di spinte erogene, ruotismi del cambio, e tutto è preciso, è perfetto, è puntuale, ha la sua logica, la sua importanza, la sua funzione, il tassello giusto al posto giusto. La valvola farfalla è direttamente collegata al pedale dell'acceleratore, lo so, da bambino avevo l'enciclopedia dell'auto. Si schiaccia il pedale dell'acceleratore, si apre la valvola farfalla, è semplice, diretto, immediato, senza filtri. Si schiaccia il pedale, si apre la farfalla, si schiaccia il pedale, si apre la farfalla, è semplice, diretto, immediato, senza filtri. È logico, si schiaccia e si apre, è semplice, diretto, immediato, senza filtri, si schiaccia e si apre, è logico. Io ti tradisco e tu mi lasci, io ti ho tradito e tu mi hai lasciato. Matteo, tu mi hai lasciato. A me la mia città piace, ne conosco tutte le strade, stradine, ZTL, bretelle, vicoli, tangenziali, ne conosco i barchi. Per penetrare nel cuore pulsante conosco le sue logiche, le sue dinamiche. Nella mia città mi sfuggono soltanto particolari irrilevanti, tipo gli orari degli autobus, quelli delle poste, dove andare a pagare bollette. Mi dispiace, ma io ho l'addebito bancario indolore, ma soprattutto esente fila, vecchi confusi, extracomunitari smarriti, impiegati indolenti, dolenti, sfogliati. È una città semplice che non ha bisogno di tram, metropolitane, metrotram, metrobus, dove perfino gli intellettuali hanno capito qual è il loro ruolo. Acqua in bocca, ma mano tesa. Anche le manifestazioni politiche vengono educatamente pianificate nei tempi, nei percorsi, nei contenuti, per non disturbare il grande partito trasversale, multietnico, popolare della Notte dei Saldi. Certo, non tutto fila per il verso giusto, e se gli argini nel fiume che la attraversa assomigliano piuttosto agli argini del fiume Moldova, di Dniepr, di Dniestra, con orde barbariche che pasteggiano a tavernelle porcherie, ma almeno pulissero, dico io. Se va in centro, devi essere bravo a fare lo slalom tra Bukumpra, scientologi, mormoni vestiti a festa e i marxisti-leninisti che ti chiedono di sostenere la stampa paleocomunista, ma per carità, tutti a persuadere tutti delle proprie debolezze. Occhio al portafoglio, perché il sabato, la domenica, il centro della mia città è infestato, impestato da bande di zingarelli che sciamano dai campi che il comune ha loro democraticamente attrezzato, in modo che ogni cittadino democratico sia libero, sì, di essere assediato da queste bande di ladri, rapinatori, criminali ed assassini. Anche noi abbiamo le nostre baby gangs, anche noi abbiamo il nostro Bronx. È una strada, ma ce l'abbiamo. Ci abbiamo costruito il muro intorno, sì, il muro di segregazione culturale, un muro altissimo come quello di Gaza, un muro lunghissimo come quello di Berlino, un muro con le torrette, i fili spinati, i mitra spianati, quattro pezzi di lamiera, quattro. E poi, via, abbiamo smantellato tutto, ci abbiamo fatto il concertino con Moni Ovadia, quel tanto per dire che noi con Vianelli non c'entravamo niente, che ci è cresciuta come una spina nel fianco, una specie di metastasi urbana da curare con un'energica infusione di chemiosicurezza. Ma se in questi giorni ci torni, Vianelli, ci trovi Tarek, Marek, Aziz, Obinna, Obodo, tutti con un cartello: ci siamo trasferiti 70 metri più avanti nel mini Bronx di via Manara, e via, altro giro, altra corsa ai parchi della mia città. Sono ormai dei mercati a cielo aperto per ogni genere di zanzare, tigri, tossici e badanti, le badanti, per colpa di questa Europa che allarga i suoi confini come le gambe di una troia. Ma noi abbiamo la nostra valida difesa, noi abbiamo il sindaco sceriffo, gli assessori pistoleros, i nonni col badile, i pensionati vigilantes. Meglio piuttosto averci un amico sbirro, il mio si fa chiamare Telepass per quel suo vezzo antico, grazioso, di evitare ogni forma di fila a se stesso e ai compari suoi. Di macchine ne ho tre versioni: la SUV, la cabrio, la turbo diesel. Il mio cane quando va a pisciare ci va con la dog sitter in city car, e vaffanculo la domenica ecologica. Vivo da solo in una villetta in un contesto tranquillo, sì, ma residenziale, il tetto tutto travata vista, riscaldamento a pavimento, l'aria è condizionata, l'impianto dell'arma è satellitare, e nel giardino, ovviamente piantumato, regna sovrana la mia erbe Lamborghini modello Katrina. Sì, la domenica mattina. La musica si diffonde uniforme nella mia stanza. Apro gli occhi e sono già sotto la doccia. La sensazione dell'accappatoio profumato è solo un attimo, e ho già addosso il vestito stirato e pulito, non da me. Uscendo, sfioro tutte le mie stanze. Sono così ordinate, impersonali, nell'arredamento minimal lounge da farmi sentire un estraneo a casa mia. Assomigliano incredibilmente alle stanze del mio ufficio e perfino a quelle del bar dove consumerò la mia prima colazione, aperitivo, pranzo, caffè. Le pastine congelate mi fanno schifo, così che mentre giro lentamente il cucchiaino nella tazzina di caffè osservo le gambe lisce ed eleganti di una ragazza che legge il giornale. L'ennesimo motociclista sotto l'ennesimo camion. Ma quanti cazzi di anni avrà avuto questa volta per far notizia? 12. Lo strazio della madre. L'immancabile foto con la squadra di calcetto. E due parole anche a Don Pierino, che è pronto a giurare, a spergiurare, che quello era il migliore dei ragazzi della sua parrocchia. Il cronista ci tiene a farci sapere però che hanno trovato tracce di cocaina nel sangue. Per fortuna che ieri hanno appena inaugurato il nuovo centro della calzatura per dare un calcio alla tristezza e alla paura dei cinesi. Anche ieri il PM10 era lì sopra dei limiti di legge, come negli ultimi 364 giorni. Ma che cazzo di giornale abbiamo in questa città? Sono nel garage riservato alla mia banca, tutto telecomandato, e con il beep dell'allarme inserito comincia la mia giornata lavorativa. Accendo il cellulare. Buongiorno caro. La valvola farfalla funziona bene stamattina. Io, affatto, è troppo presto, mi sveglio distrutto, rincoglionito. Accompagno il mio coinquilino Simpa all'aeroporto con la sua Fiat 1, tre porte, color cacarella. E quindi autostrada all'ora di punta, ma soprattutto caffè all'autogrill subito appena imboccata l'autostrada. Il mio ufficio brilla e profuma, ma tra le pratiche avverto invece un odore acre, richieste di finanziamenti, piccoli prestiti, cessioni del quinto, mutui, rapporti delle agenzie di recupero credito, lacrime e speranze, sorrisi e una sottile disperazione. Continui bip e vibrazioni mi avvisano dell'arrivo di improrogabili messaggi. Il più importante è quello del mio avvocato, che mi avvisa che la mia ex moglie ha finalmente deciso di accettare le condizioni del divorzio al giudice. Sono sfuggite certune mie entrate in nero, altre cose intestate a prestanome, così che gli alimenti sono meno della metà di quello che dovrei, ma è giusto così, no? La segretaria del direttore, scarpe a punta e naso pure, mi ricorda che stamattina ho appuntamento nei pressi dell'aeroporto per andare a valutare l'ennesimo capannone dell'ennesima azienda che ha deciso di vendere tutto per delocalizzare la produzione. Leggi che questi prima hanno devastato il paesaggio del nord-est, ora vanno a fare la stessa cosa a Timisoara. Ma chi se ne incula? Perché essere interessata all'acquisto è uno dei nostri migliori clienti? Immagino per farne un altro laboratorio tessile clandestino, dato che si tratta del vecchio cinese, plurinquisito, pregiudicato, ma che ha pur sempre patteggiato la sua rispettabilità, con buona pace della società tutta, ma in maniera particolare dei suoi avvocati. È una mattinata grigia, e come tutte le mattinate grigie d'estate è affosa, e per me è tempo di tornare di nuovo in strada, di nuovo. Il tipo ci serve inespressivo, con gesti di sempre, gesti di macchina, 10 euro di benza, nemmeno 8 litri. E poi il paesaggio intorno, Padana Wally si dispiega ai nostri occhi come amante impudica si offre oscena nelle sue prospettive e membra di capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais, e capannoni e campi di mais. Ogni tanto una casetta giusto a fianco dell'autostrada. Chi cazzo ci vive là? L'autostrada che vomita e ruggisce di tir, trasporti eccezionali, lavori in corso, cambi di carreggiata, cantieri, operai sudati a braccia nude, lo sguardo che dice: è il lavoro più brutto del mondo. Quanti capannoni ci sono? Voltarex, Transtec SRL, Ignifix SPA, Rodomec Installazioni, Aldo, Geometra, Levorin. L'unico umano. Se lei entra in autostrada, peccato che il tratto sia breve, sfilo via silenzioso, sfuggo rapido alle indecisioni. No, la pattuglia della polizia autostradale, no. Io non voglio averci un cazzo a che fare con questi sgherri della gleba, per fortuna, che hanno puntato un pulmino direzione Tarromania. E chissà che ci trovino dentro la bici nero carbonio del Beppe, l'autoradio MP3 della Cici, la fotocamera digitale della Raffa, che tanto poi gli fanno il verbale per i copricerchi non regolamentari. E quelli in furgone hanno il soggiorno di mia zia, capannoni. Capannoni per chilometri, con la scritta affittasi, vendesi, spesso utilizzato come dormitorio degli stessi sfigati che prima ci lavoravano dentro, beh, dalle capanne dei loro villaggi del cazzo, ai nostri capannoni tirati su in 3 mesi. A me l'evoluzione sembra innegabile. I primi a vendere erano stati quelli della Voltarex, poi la Transtec, la Ignifix, la Rodomec. Soltanto il geometra Aldo Levorin rimane ancorato ad un'idea di capitalismo basato su l'autosfruttamento, che però attualmente frutta soltanto alcune disfunzioni epatiche e un odio per tutto ciò che abbia gli occhi a mandorla, compreso Mao. Mao, il gatto persiano della figlia tredicenne. Sulla tre corsie della Serenissima c'è il solito delirio, una fila interminabile di mostri bilicosi con sopra mostri biliosi che sparano volgarità stereotipe da loro microfoni tutto intorno. Cambi di carreggiata, lavoro in corso, capannoni, campi di mais. Cambi di carreggiata, lavoro in corso, capannoni e campi di mais. Cambi di carreggiata, lavoro in corso, capannoni, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais, campi di mais. Ma che cazzo ce ne facciamo noi di tutto questo mais? Guido, ma sono assente, perduto, tra il piattume di fuori, il piattume di dentro, i tralicci, i viadotti e il grigio di questa mattina grigia, perché oggi padana vuole e è grigia. Minchia, come se essere grigia padana vuole quando è grigia, però i più bei tramonti della mia vita io li ho visti dalla mia città, in certe magnifiche giornate di sole e di vento, con i colli azzurrini in lontananza che ti viene voglia di prendere la cacarella di Simpa e di andarci sui colli. L'aria è così tersa che li puoi quasi toccare con mano. Ma oggi padana vuole è grigia e alla fine dell'autostrada la grande barriera ci aspetta come enorme sorriso sdentato di ridi. Sai già che ti tributeremo dazio, io, Simpa e questi altri bellissimi 5.927.123 veicoli che si accalcano, si ammassano davanti, di dietro, ai fianchi, sbraitanti, impotenti. Sbraitanti, impotenti, ce ne siamo di fronte alla grande barriera che è un vocabolario di manovra azzardate, scorrettezze, furbizie, finché si può, cioè fino al collasso totale e immobilizzante. È un ingorgo di visite mediche, trasporti eccezionali, impegni di lavoro, vacanze e cazzi vari. Al mio fianco ti noto una vetturetta color tipo cacarella, non saprei descriverla meglio. L'autista all'occhio fisso sulla strada, buttato sul sedile con i suoi piedacci sul cruscotto se ne sta l'altro e non si parlano, con i loro sguardi perduti, poetici, che dire, fatevi un pax, vivete in pax, non mi rompete il cacco, che intanto io mi infilo in mezzo a queste due bizarche ucraine. C'è coda alla grande barriera. Che novità, e quindi tutti fermi, tutti in fila, valvola farfalla al minimo, più in là. Una pattuglia della polstrada tenta di darsi un tono, tenta di darsi un contegno. Ma anche loro sono fagocitati da questo mostro di metallo rovente PM10. Anche loro perduti per sempre. Vabbè. Ci gestiamo l'attesa in silenzio, ognuno assorto nei pensieri propri, perché anche il Simpone c'ha dei gran cazzi per la testa e non a caso se ne parte per il Senegal, Dakar, solo andata a trovare certi amici suoi musicisti, cambiare aria. Io affossato al sedile, la sveglia troppo prestolina, tutto il resto, voglio di parlare zero, d'altronde il bello degli amici è che poi statene zitto, no? Quanti silenzi tra maschi ho vissuto. Alla fine arriva anche il nostro turno, paghiamo i 2 euro di dazio e ingraniamo la grande tangenziale a 3 corsie che però funziona a 2 di corsie. È veramente un delirio, non capisco perché continuino ancora a chiamarla la locomotiva del nord-est. Io vedo solo camion. Il beep sul cruscotto segnala la transazione eseguita, niente contorsionismi per me per trovare la monetina spersa, niente saluti imbarazzati per me al casellante. Incredibilmente quella vetturetta dal colore improponibile mi ha adesso davanti, che esegue acrobazie tra tir, battenti, bandiere varie, ma il tempo stringe e il pedale dell'acceleratore esaudisce tutti i miei desideri molto meglio che la lampada di Aladino. Mi infilo tra 2 tir dell'ex cortina di ferro e ne dribblo perlomeno altri 3 di provenienza spagnola, rispettivamente Barcellona, Alicante e Malaga. Guadagno la corsia di sorpasso sfrecciando 22 km orari. Infatti ci scappa una risata. Caro buon vecchio Simpone, però tu te ne vai. Tu riesci a fuggire da padana Wall e io rimango qui da solo, condannato senza più Matteo. E tu questo lo sai molto bene, perché tu sei il suo migliore amico. E io mi sento semplicemente così triste a pensare a quanti incidenti frontali, mortali ho rischiato. Ma dov'è il problema? Io già me lo vedo il giornale della mia città. Schiantato, no, troppo poco, sfracellato, smaciullato, giovane funzionario della banca dello strozzinaggio a norma di legge di Padania Wally, con la foto del mio vecchio cane che guarda un po' basito l'obiettivo della fotocamera come se pensasse: bau, e adesso? Chi sei che mi dà le crocchette? Lo strazzo di mia madre continua a chiamarmi Alfredo! Alfredo! Alfredo, mamma, mamma, non mi chiamo Alfredo neanche di secondo nome, ma soprattutto una grande foto di me sul cubo Al Pacià di Ibiza con entrambe le veline, tracce di mescalina, clonidina, benzodiazepina, metilandossi, anfetamina, cocaina, eroina, fricaccina e anche qualche globulo rosso nel sangue. Merda, ho sbagliato uscita. Imbocchiamo la deviazione per l'aeroporto, lasciandoci alle spalle l'inferno della grande barriera, il grosso del traffico, la cacarella, viaggio più spedita adesso. E stanotte? Mi sa che mi tocca di andare a lavorare, avrò 25-30 euro in tasca e varie immanenze alla porta. Il capannone? Beh, il capannone era quasi pericolante, ma io ho sottoscritto che vale oro. Di modo che il mio direttore firmerà un assegnuccio che con gli interessucci privilegiatucci farà in modo che il vecchio cinese mi paghi lo stipendio per il resto della vita. Eppure parte la pensione. Ma dove cazzo le andrà a prendere i soldi sto cinese che sulla carta è tutto un fallimento? O forse perché i suoi operai sono costretti a lavorare come schiavi e pisciare dentro buste di plastica per non allontanarsi troppo. Vabbè, dai, qui di questi China proprio non ci possiamo lamentare. No, fanno tutto tra le mura di casa loro, che siano ospedali, che siano puttane, che siano omicidi, dico a questo punto. Non potrebbero fare anche delle belle scuole clandestine? Sì, così che io avrei evitato di mandare mio figlio al Visa e quelle private, che diciamo la verità, già di suo un genio non è. Ma se poi gli si affiancano questi ritardati di extracomunità, neanche nei 6 anni che ci ha messo avrebbe finito la scuola media. Ora l'orizzonte più largo, più fresco, frullato, dei gabbiani. Spunta un sole qualunque a benedire Padanavuole. I saluti non sono al mio forte. All'ingresso dell'aeroporto. Beh, allora, ciao. Fai buon viaggio. Magari è la volta buona che muovi quel culo pesante che ti ritrovi e magari ti trovi un lavoretto e magari ti di su dei soldi e magari, magari mi vieni a trovare. Ti farebbe veramente piacere che lo facessi? Prima Matteo, adesso Simpa. E stanotte io sono di caccia. Viaggio di ritorno e come l'andata, solo in senso contrario. Il saluto di un lontano campanile e ritorno a me piccolo al tempo delle elementari. Il prete dell'ora di religione che mi sgrida davanti a tutta la classe perché non vado a dottrina. Ma è un flash, un pensiero lama che mi attraversa così e son già all'uscita ovest della mia città. Il sole è definitivamente uscito e irradia una cappa stagnante e afosa, sudore e ozono sopra le righe, i vestiti che ti si appiccicano addosso e il forno di Padanavuole è appena cominciato. Mezzogiorno mi regala una bolletta APS 784. Dove APS è la sorella o la cugina di quell'altra APS Mobilità e 784 è l'importo da pagare in euro per il riscaldamento. È stato un inverno molto lungo, un inverno molto freddo, un inverno in trincea. Che bella mazzata, 784 euro da tirarsi su entro la metà del mese prossimo. Le voci e le cifre, perfettamente incolonnate, perfettamente intellegibili, perfettamente incontrovertibili. Guardo la bolletta trasognato, rapito. Da come riescono a mettertela in culo così bene, elegante, te la mettono in culo. Sarà il caldone allo zenith, ma io comincio a sognare. Torre di controllo, qui volo APS 784, destinazione Dakar, Senegal. Chiediamo autorizzazione al rullaggio. Vola PS784, vola PS784, permesso accordato. Buon viaggio, vola PS784. Cazzo, Simpa! Ce l'ho fatta! Hai visto com'è stato semplice? Hai visto com'è stato facile? È bastato cambiare il significato delle lettere. APS 784 non è più una boletta di merda, ma è l'aereo che mi porterà da te, caro Pompa, che si impone. Forse è proprio lì a Dakar avrò il coraggio di dirti cos'è successo veramente tra me e Matteo, cos'è successo veramente tra me e il tuo ex migliore amico. È successo tutto così in fretta. Il benessere a Padana Valley costa caro, d'altronde noi siamo gli industriali industriosi della nazione, noi tiriamo avanti la carretta, la nostra locomotiva sferraglia, produce, non si accorge nemmeno di quanto sia esausta, spompata e infelice. Nella mia città la vita costa caro, esempio, un bicchiere d'acqua al bar mi costa 60 centesimi, un cinema 7,50 euro, ma io da vecchio studente universitario scafato vado solo alle rassegne del Cook, che mi costano al massimo 4 di euro a vedermi film, assolutamente, rigorosamente, de sé. E quanto vorrei andare al Cinecittà a vedermi King Kong? Il fumo, non ne parliamo, da quando c'è l'euro il prezzo di hashish e marijuana è salito a vertiginose vette, l'erba a 10-12 euro al grammo, pazzesco, e per di più nelle piazze la roba fa, è ancora peggio, la roba fa cagare, ci hanno messo le telecamere, io pur sempre 35 passa anni, queste cose le facevo quando ne avevo 20 di anni. Ricordo ancora le collette in compagnia per tirar su le 5.000 lire, perché allora in Prato ti vendevano ancora le stecchette da 5 carte. Il Prato, il luogo privilegiato, il luogo particolare, il luogo deputato, il luogo sacro dello spaccio nella mia città. Ci venivano anche da fuori, eh? Il Prato era conosciutissimo in tutta la regione, il Prato e i tossici del Prato, che ti vendevano la roba direttamente importata dall'Afghanistan e che quando pioveva e tirava vento, li potevi incontrare sotto i portici, poveri uccellini intirizziti. Quanti alberi c'erano una volta in Prato. Poi li tagliarono tutti, malati di cancro, dissero. E il Prato non fu più lo stesso, e i tossici rattristati transumarono direttamente alle piazze, che almeno lì di alberi non ce n'erano mai stati, al massimo c'era solo il liston. E ogni domenica vomitavo la mia città ben abbiente, fichetta e alla moda. Arriva anche l'ora degli spritz alle piazze e riesco nel caldone umido, satro di polveri sottili e arsenico. L'atmosfera è come sospesa, il rintocco di una campana, due magrebi fermi sul marciapiede in losca attesa, l'orologio della cassa di risparmio segna 37 gradi. Minchia, non sono riuscito a sentirmi col tipo, d'altronde di questi tempi bisogna stare tanto attenti che si rischia la galera per due canne. Lui d'altronde non risponde ai miei sms in codice, quindi se voglio fumare stanotte mi sa che mi tocca di andare in piazza, forzatamente, a quella con la fontana, e infatti con la di Rigo, a Bombarone, a Manona, a tutta banana, ai pusher nostrani soppiantati da torme e torme di pusher extracomunitari. È segno dei tempi, alle fattorie del Riff, alle piazze di casa nostra, a me l'evoluzione mi pare innegabile. Ma la tecnica rimane quella di sempre. Fisso intensamente negli occhi un marocco, lui mi fa un cenno con la testa, è fatta. Lo seguo per un po' sotto i portici, lui dà una voce a Mohammed, il quale schizza al razzo per ritornare subito dopo, l'aria un po' furtiva, il momento peggiore per me. E quando devo tirare fuori i soldi, mi sento sempre come un turista a chiappe scoperte nella pedonale di Sodoma e Gomorra. E anche loro si sono montati la testa, una volta in piazza, nema problema, adesso un deca non te lo caga più nessuno, almeno 20 euro devi comprarne, e se no storcono il muso, fanno i capricci e non vale la pena rischiare per così poco, mi dice Mohammed guardando un punto altrove sopra la mia spalla, e mi giro anch'io. Ma mi pare tutto regolare. All'altro capo della piazza due pulotti in pompa magna ostentano spalle, ostentano mostrine, discettando amabilmente con un paio di giovani studentesse universitarie e bici munite. Ok, fumo ok, manca solo lo spritz e quest'oretta da ammazzare, ma non in piazza, che odio i bicchieri di plastica. Mi addentro nel dedro del ghetto verso il mio wine bar preferito. perché adesso si dice così, no? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu la sorella che contemporanea mi allunga la patatina nella sua apposita vaschetta, vado a sedermi in vetrina, la vetrina che dà sul vicolo in piena animazione. È carino il posto, un po' troppo piccolo, un po' troppo affollato, ma è tanto, tanto tranquillo, non è? Mi serva di caccia, perché se voglio quella, preferisco quel locale in circonvallazione, o meglio ancora quell'altro, in zona industriale. Alzo gli occhi e oltre la vetrina un tizio mi sta fissando, come costernato. Però è un attimo, perché ritorna subito al suo cellulare, al suo interlocutore, magari la fidanzata, magari stanno litigando, si avvicina all'entrata, ho finito lo spritz, mi alzo ad andare ed è un attimo. È il suo viso lucido di sudore, sbarbato di fresco, il pizzetto curato, nell'incuneo dei corpi che entrano ed escono, ci siamo sfiorati la mano. Però è un attimo, perché io sono già fuori, lui è già dentro, ci siamo scambiati appena uno sguardo castano, impersonale, io sono già fuori, lui è già dentro, cammino rapido, con la stranissima sensazione come se mi avessero aperto improvvisamente la porta del bagno, ed io seduto sulla tazza del cesso che mi sto, non saprei né scriverlo meglio. A casa un par di pomodori e una scatoletta di tonno, mi inventerò un'insalata in attesa che la mezzanotte si compia. E poi, come Cenerentola, indosserò il mio viso più invitante, ma non per il principe azzurro. A me interessano i sette nani. Alla TV non danno mai un cazzo di niente di interessante. Ramingo scazzato da un canale all'altro, in culo una birra a Paolo, non se ne avrà male, così rimango come fotografato in soggiorno. Tra la tele, il divano, la birra e il tonno, rispondo a due sms, metto in carica il cellulare, mi fumo la sacrosanta benedetta propedeutica canna e alla fine mezzanotte mi ritrova in bagno e davanti allo specchio, completamente nudo, inizia il rito maledetto. Mi guardo con occhi di giade e di lussuria, mi tocco con dita di fornaio, l'inventario della mia pelle si apre, si offre, soffre, si piega, si contorce, mi trovo bello, bello, stanotte lo specchio mi sorride e mi viene un flash su mia madre. È seduta in cucina e papà le siede accanto e le appoggia la testa sulla spalla e lei mi guarda maliziosa e mamma, che cosa sarebbe meglio per te di sapere? Che sono mesi e mesi che non frequento più una cazzo di lezione, non do più un cazzo di esame. Ok, è un figlio omosessuale che fa pompini, saltuari a pagamento, una specie di outsider del sesso, non sono professionista nemmeno in questo. Io non sono più niente, mamma. Il mio viso è così bello, è così bello, è così bello. Stanotte lo specchio mi sorride, fanculo. È la mia mezzanotte. Mi chiudo l'uscio alle spalle, respiro, come sto, come mi sento, come orgogliosa Cenerentola durante gli scale. E poi sarò ancora in strada, di nuovo, ancora. Torno in ufficio a prendermi i complimenti del mio capo per come sono diventato bravo, ma bravo a mentire, a sparare cazzate su carta bollata, caro il mio capo. Chissà se ti accorgi che sono così bravo anche quando si tratta di compilare il foglio degli straordinari. Sono le 7 di sera e per me è tempo di abbandonare la cittadella della produzione, un'isola di beatitudine e amoralità, tutto prato all'inglese, fontanelle, per scendere nel salotto buono della mia città. E che cazzo ci devo fare io se da parcheggiare trovo sempre e soltanto sul posto riservato agli handicappati? In piazza ti vedo il mio amico Telepass munito di collega, entrambi in altissima uniforme, fanno i cascamorti con due universitarie, bici munite e gran pezzi di gnocca. Gli faccio un cenno, lui mi sorride e intanto alle sue spalle succede di tutto. Adolescenti che sboccano le loro prime esperienze con gli spritz dei cinesi, nordafricani che smerciano freneticamente sotto l'occhio vigile delle telecamere della questura, che ovviamente starà zoomando su qualche periodo. Zoma. Ma come dargli torto, i soliti bongoloidi, qualche sparuta chitarra e un esercito di attuali contestatori e futuri dottori in ingegneria, medicina, giurisprudenza, economia e commercio, tutti a lamentarsi del caldo umido e del rincaro delle tasse, le tasse universitarie peraltro sempre regolarmente pagate da mamma e papà che sospirano, però poi finanziano, sospirano, però poi finanziano, sospirano, però poi finanziano a me. Il centro della mia città piace, identico, è vero, al centro di tutte le città di quest'Italia in franchising, ma che si declina nei volti, nei corpi di questo esercito di commesse, cameriere del centro. Mi piace, anche se lo vorrei ripulito da questa feccia indistinta di paria, di cerebro resi, di gente che ha la capacità dialettica di un cubetto di porfido, capace di protestare contro tutto, contro tutti, eccetto che contro se stessi, per essersi ridotti alle merde che attualmente sono. Un grebo caccia nella tasca di un tipo qualcosa che immagino non sia un santino di Padre Leopoldo. Vorrei richiamare l'attenzione del mio amico sbirro, ma qualcosa mi blocca, perché a me quel tipo mi sembra come di conoscerlo, di averlo già visto. Adesso si allontana col viso disteso, il passo sollevato. Sembra uno che si sia rivestito incolume dopo aver mostrato le chiappe al Gay Pride. Non so perché. Sarà il caldone allo zenith, la stanchezza. Ma lo seguo, e lui si infila in un vicolo appena dietro la piazza rumoreggiante, e mi ci infilo anch'io, e lui è svanito, scomparso nel nulla. Faccio ancora qualche passo e alla fine te lo vedo dietro quell'enorme vetrina di quel baretto nascosto, cioè un'occhiata così di sfuggita, subito faccio finta di parlare al cellulare, ostento sicurezza, mi avvicino all'entrata del bar e lui è là, seduto, o meglio appollaiato, con le gambine accavallate, un po' i pantaloni di lino un po' tirati su e addosso ha una cavigliera di cuoio, un paleo fricchettone del cazzo. Altro che conoscerlo, entro nel posto e quasi mi scontro con lui che se ne esce. Il posto è carino, grazioso, con questi tavolini di legno, con sopra appiccicati le poesie, così che mi ordino il mio prosecco macchiato Aperol, grazie. Il tempo di lasciare giù il dovuto e riconoscere in questo posto il tipico ricettacolo di falliti del cazzo di questa cittadella di provincia. Tutti pseudo artisti, tutti pseudo intellettuali, in realtà tutte pseudo persone. Questa volta sono io a varcare la soglia del locale alquanto sollevato e dirigermi direttamente verso uno di quei ristorantini, quelli con specialità Mujahideen, Hezbollah, ma che cazzo ne so, quanto mi stanno sui coglioni a me i ristorantini etnici, è sempre la stessa storia, che siano iraniani, messicani, talebani, questi prima ti bruciano le papille gustative col piccante e poi ti fanno mangiare il cartone fritto. Ma grazie al cazzo, dico io. Quello che mi piace di questi posti però è il servizio, sì, perché i camerieri hanno sempre quell'atteggiamento, come dire, con questi sorrisini ebeti, sottomesso, adatto. Non come i camerieri di certe nostre pizzerie, che lo capisci subito che sono degli studentelli universitari incazzati che ti spiattano la pizza con quel sottile disprezzo di chi è convinto che giusto sarebbe che sia tu a servire loro. E non il contrario, loro, poverini, costretti sì a lavorare soltanto per il rincaro dopo l'euro dell'hashish e della marijuana. Drogati. Finito di mangiare ci dirigiamo verso le rispettive macchine, ma prima di partire il mio grande capo fa il suo solito piccolo scherzo. C'ho così, guardai che gli se gaccia pa la multa, paga il rincar par tutti, Ma va in culo, scorreggione. Per raggiungere la mia macchina attraverso il centro c'è ancora un po' di movimento, ci sono le solite contraddizioni, ma così incorniciate da questi palazzetti storici con le loro corti nascoste, i portici misteriosi, i balconcini, le finestrelle, come a voler dire che sono secoli che funziona così, millenni che funziona così e che questo in realtà è il migliore dei mondi possibili, o perlomeno quello che ci siamo costruito. Mentre sto per salire in macchina, un tipo mi prega di recare i suoi omaggi alla mia signora, la mia signora. Ma chissà che fine ha fatto la mia signora, mi ricordo che appena sposati si limitava a spendere tutto quello che io portavo a casa, tutto. Alla fine non faceva altro che corsi di teatro, danza afro, esperta di modernariato, scatole d'argento, mi ricordo dei gran pompini che mi faceva appena sposato. E alla fine non mi cucinava neanche una cotoletta surgelata. Nella mia città non è come Milano o Roma, nella mia città i tragitti sono brevi, così che nel giro di una traccia di CD sei già arrivato a destinazione. In discoteca l'orario è ancora sul prestino, i tavoli sono gremiti ma le piste semi deserte, la musica ha già un volume paradossale, lo staff della sicurezza a me sono sempre sembrati dei pagliacci con queste camicie attillatissime, cravatte tirate su all'inverosimile, capelli rasati a zero, sguardo da Doberman rumeno. Però non potrò mai dimenticare quando uno di loro, col bavero del mio direttore in mano, continuava a dirgli: non si fa così, non si fa così, come un vecchio agente del KGB. E il mio gli contro: ciao Ceausescu, guarda che mi to fasso mangiare il tuo permesso di soggiorno, va in figato mare. In fila al bar vedo il mio uomo, gli faccio un cenno, lui si avvicina. Mi dice di essere fuori gioco almeno per un mese, un ritardo nei pagamenti, niente a che fare col mio divertimento, a due righe per me. ma non vuole mica soldi, semmai gratitudine e fedeltà. Solo nel bagno, stendo la bamba, picchiettandola con amore, e lei con amore monta, così che arrotolo 50, inalo, aspiro, e non mi resta che aspettare, ma ripeto, è quella buona ed educata, non si fa attendere, già in circolo, esco fuori, chi ti trovo? Il solito stronzo che mi sorride complice. È come se ci fosse una tribù di stronzi che passa il suo tempo fuori dai cessi delle discoteche per aver l'onore di sorridere complici a coloro che dentro vi hanno commesso le cose più turpi. Intanto fuori il locale è stravolto, la musica è insopportabile, ma anch'io sono un uomo nuovo. Torno al tavolo dei colleghi e inchiodo il direttore con qualche battuta. E a lui gli piace perché è convinto di tenermi al guinzaglio, gli piace sentirmi abbaiare di tanto in tanto, ci sono serate e serate, serate in cui tutto è possibile, lo capisci subito dagli sguardi che dai, da quelli che ricevi e altri in cui la cosa migliore che puoi fare è tornartene a casa e limitare i danni, così faccio io. Sono strafatto, lo ammetto, però perlomeno non ci ho bevuto su e quindi mi sento lucido, preciso, mentre ingrano le marce tralasciando il saluto ai subalterni. Mi infilo in tangenziale, imbocco subito la strada giusta, ma dalle casse della mia macchina si diffonde una musica relax, vero chill out, così che decido di allungare un po' il tragitto di ritorno a casa prima, costeggiando la nostra versione sfigata, provinciale, dei navigli lombardi e poi, mentre mi faccio tentare di farmi un giro a puttane, quanto vorrei fermarmi adesso invece, cioè quanto vorrei fermarmi e tornare indietro, non mi interessa mica più ripartire, ricominciare quelle cose lì, quanto semmai dimenticare, sì, dimenticare ed essere dimenticato e ritornare in quel tempo, in quel posto in cui non conoscevo nessuno, in cui nessuno mi conosceva e potermi rimangiare tutte le cose che ho detto, le promesse che non ho mai mantenuto. Quanto vorrei che fosse buio. È ancora buio. È ancora buio. Marciapiede. Procedo lentamente adesso. Mi giro una cicca. Mi sento tranquillo, sono di nuovo tranquillo. Due affari mi investono. Mi appare l'improvviso. Il tempo di riconoscere. Mi supera. Lui... E si blocca. Mi blocco. Che sta facendo? Metto la retro. Retromarcia accosta. E poi accosto. Non ci posso credere, ma tu qua che cazzo ci fai? Aspetto. Vuoi che salga? Altrimenti? Perché mi guardi così? Ma niente, scusami, è che sono stanco. È stata una giornata difficile. Sì, di traffico. E compromessi. No, è la terza volta che ci incontriamo. Guarda che Padova non è come New York. Vabbè, ma che c'entra? Rimane una coincidenza strana, no? Le barriere, le piazze, adesso qua. Vabbè, scusa, lascia perdere. In quanto a questo, sono un campione mondiale. Il punto è che lo siamo tutti ormai. E spegni il motore. Che ci facevi in autostrada? Traffico e compromessi. Ma che sono così stanco, mi ci vorrebbe un bel viaggio adesso. Con il volo APS 784. Ma che cazzo dici? Dammi la mano. Scusa, devo andare. Dammi la mano.